Open Tour 2023 Art is Coming Out. Siamo qui per parlarne con Giuseppe Lufrano, curatore di questa edizione di Open Tour. Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Nona edizione di Open Tour, come è caratterizzata appunto questa nona edizione? È caratterizzata che gli spazi aumentano sempre di più, per cui c'è un grande interesse da parte della città e da parte di tanti spazi espositivi, sia professionali che no profit. Questo è un'esperienza unica in Italia, perché nessun'altra città ha un'accademia che si relaziona col territorio in modo così capillare, ed è un'esperienza molto interessante. Volevo puntualizzare però un aspetto: questo non è un saggio finale degli studenti dell'Accademia, ma sono veri e propri progetti espositivi proposti agli spazi sia professionali che no profit dai docenti dell'Accademia, per cui c'è un progetto dietro, cioè non è una cosa che riguarda tutti in modo indistinto e quindi in termini democratici chiunque è iscritto all'Accademia può partecipare. No, questo avviene all'interno dell'Accademia. Infatti le aule sono già aperte oggi, che c'è la conferenza stampa, per cui voi giornalisti potete vedere quello che fanno in aula dentro l'Accademia già stamattina, ma fuori è proprio come una grande mostra. Assolutamente, infatti vedo qua una lista veramente infinita. L'Accademia si apre alla città per questa nona edizione. Vedo che si inizia il 20 giugno, come si parte? Io mi sono occupato prevalentemente degli spazi espositivi professionali, cioè le gallerie legate a ASCOM, che si raccolgono nell'associazione Gallerie d'Arte Moderna ASCOM. Questa parte di Open Tour parte giovedì, che ci sarà questa inaugurazione collettiva dalle 3 del pomeriggio alle 23 della sera, in cui si potrà fare il giro di tutti questi spazi professionali. Ci puoi dire allora magari qualcuno di questi spazi che appunto, certo, saranno aperti? Sarà aperta la 8 Gallery, la P420, la Galleria Ariete, la Galleria Di Paolo, la Galleria G7, la Galleria 56, la Labs Gallery, un po' tutte le gallerie professionali, quelle più importanti della città.